Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Salutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Dunque, torniamo a parlare di tasse, pur nell'incertezza di questi giorni, insomma, con i cambiamenti che stanno avvenendo a livello politico. Le tasse che già erano in vigore le abbiamo pagate, le stiamo pagando. Lunedì 17 scade la seconda rata dell'IMU, però ormai a fine anno possiamo anche fare un po' di conti, qualcuno li ha già fatti, nel senso che arrivato già a prima della metà del mese di dicembre probabilmente già non rimane nulla. Cosa dici? Sostanzialmente è quello che hai detto tu, e purtroppo, come molte persone si renderanno conto, la cosa peggiore è che certi versamenti, certi pagamenti vanno sempre a cadere in certi periodi dell'anno, come dicembre, che è sempre un periodo molto delicato, perché poi scopriamo che molte persone hanno anche dei rati e dei debiti che si sono protratti perché sperano di poterli assolvere con la tredicesima, però è anche vero che molti di queste persone ormai non hanno più le tredicesime o magari si trovano con delle tredicesime minime. Chiaramente dobbiamo tener conto che quest'anno rispetto all'anno precedente abbiamo l'IMU che, come hai detto tu, entro la prossima settimana deve essere saldata, e anzi invitiamo tutti i consumatori a verificare l'aliquota del comune, perché la maggior parte di questi hanno fatto dei piccoli rintocchi, ovviamente a rialzo, con la delibera che scadevano il 31 ottobre, di cui dovevano stabilire le aliquote che dovevano essere e che devono essere saldate entro fine anno. Ecco, aggiungiamo che poi molti comuni, anche per facilitare soprattutto gli anziani e le famiglie, hanno messo a disposizione un servizio di moduli precompilati già con la tariffa indicata, insomma almeno questa è una piccola agevolazione, in modo che uno prende il modulo l'F24 e va in posta a pagare senza dover verificare ulteriormente. Ma non c'è solo IMU, insomma nel corso del 2012 ne abbiamo parlato più volte, le voci che incidono su questo bilancio mensile e complessivamente sul bilancio 2012 di ogni famiglia sono tante. Beh, questa volta per esempio è stata la CGA a fare un piccolo studio dove ha calcolato come l'introduzione dell'IMU, gli aumenti dell'IVA, le accise sui carburanti, l'addizionale IRPEF hanno inciso quest'anno sui redditi delle famiglie, individuando anche tre tipologie di famiglie diverse una dall'altra. Per esempio parliamo di chi ha un figlio, chi ne ha due figli o della normale coppia. È anche vero che è un calcolo che a nostro avviso, come Adico, diciamo, è stato approssimativo, perché in realtà è molto peggiore, perché dovremmo tener conto anche i tre aumenti che ci sono stati delle bollette di energia elettrica e del gas, le tariffe dei trasporti, e bisogna calcolare l'IRPEF comunale, che qui invece non è stata calcolata, e poi tutte quelle altre voci come per esempio i pedaggi autostradali e via dicendo. Però mantenendoci a questa indagine qua, è risultato che proprio per una famiglia tipo che ha un reddito di circa 50.000 euro e un'abitazione di poco più 100 metri, il carico fiscale quest'anno sarà di circa 726 euro. Certamente 726 euro, che è un importo considerevole, perché come detto, anche se è un importo che per noi è approssimativo, ma capisci che fondamentalmente ci avviciniamo quasi a quello che è una normale busta paga di una persona che prende circa 1.000 euro l'anno. E purtroppo a dicembre ci sono anche da pensare a quelli che sono un po' i regali da fare, le spese da sostenere e soprattutto le bollette, perché ci sono i termosifoni che stanno andando a tutta birra. Certamente le famiglie si troveranno a fare dei conti molto molto difficili e soprattutto salati. Questa è una famiglia tipo, cioè coppia con due figli, giusto? Sì, la CGA ha diviso appunto lo studio per tre tipi di famiglie. Questa che ho detto io è il tipico caso di una famiglia che ha uno stipendio annuale di 50.000 euro. Certamente 50.000 euro è il frutto della somma di un lui e lei che lavorano comunque l'orda, perché 50.000 euro l'orda sono sostanzialmente 34-35 al massimo mila euro netti di due persone che lavorano, e con un'abitazione di circa 115 metri quadri. E dal calcolo che hanno fatto loro, sicuramente, come detto, anche se il nostro avviso è approssimativo, quest'anno il carico fiscale sarà di 726 euro in più rispetto a quello dell'anno precedente. Proviamo a vedere anche un'altra tipologia di famiglia. Sì, un'altra tipologia di famiglia, per esempio, è quella con la coppia con un figlio solo, dove lui prende 22.000 euro lordi e lei 19.000 euro, vivono sempre su un'abitazione di circa 100 metri quadri, e le voci che quindi loro hanno voluto valutare in quello che è stato un'ottica di maggior costo e sborso rispetto all'anno precedente, quest'anno è di 640 euro in più. Anche qui, calcolando che uno prende 22.000 euro lordi, vuol dire circa 15.000 euro netti, che diviso 13 mensilità, 640 euro certamente non è poco. Poi, come detto, dobbiamo considerare che ci sono anche mutui, affitti, spese condominiali. Magari anche qualche spesa imprevista, perché può sempre, purtroppo può sempre capitare. Insomma, penso si rompe la macchina, si rompe la caldaia, Dio non voglia, qualcuno sta male, aumentano anche le spese mediche, magari detraibili, però intanto uno spende. Ah, certo, infatti è saputo che ormai la maggior parte delle famiglie oggi non sono in grado più a riuscire a far fronte a quelli che sono proprio degli imprevisti, perché la rottura della macchina è certamente un dramma, ma pensiamo anche al dentista o all'oculista se ci sono delle necessità o delle prescrizioni da dover fare. E poi, come hai detto te, ci sono anche tutte quelle voci che magari una persona non mette in preventivo e che in questo periodo dell'anno certamente fa fatica a dover sostenere qualora si dovesse presentare. Come hai detto, bisogna tener conto che in questo momento le caldaie stanno andando alla grande, perché le temperature sono crollate, e bisogna tener conto anche quelle che sono le bollette che arriveranno. Certamente della tredicesima resterà veramente ben poco, e come ho detto, questi 640 euro per una coppia con un figlio, secondo noi, sono molto molto di più, e mi pare un calcolo roseo rispetto a quello che dovrebbe in realtà essere. Previsioni per il 2013? Le previsioni per il 2013 sicuramente non saranno rose, perché poi anche qui abbiamo dei scenari politici che sono in piena evoluzione, e certamente questo crea dei grandi squilibri e delle grandi incertezze sui mercati. Ne risentirà molto chi per esempio ha un mutuo variabile, perché già dobbiamo renderci conto che abbiamo uno spread che è molto volatile, e purtroppo questo è un fattore che incide molto sui mutui, soprattutto variabili, e sui prestiti. Poi, per quanto riguarda chi verrà al posto del governo attuale, certamente dovrà guadagnarsi molto la stima e la fiducia del popolo, perché credo che mai come in questo periodo c'è un'apatia verso quelli che sono i nostri amministratori, i nostri politici, che sicuramente con molta molta diffidenza si possono avere credibilità. Mi auguro solo che le persone nel momento del voto non possano cadere vittima di quelle che possono essere dei slogan che poi sappiamo che puntualmente i politici disattendono. Ne parleremo a tempo debito, intanto fra due giorni ci ritroviamo e parleremo, ahimè, di redditi, che già lo sappiamo, sono piuttosto scarsi, e ne approfondiremo meglio appunto fra due giorni. Intanto grazie Carlo e buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.